Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata, ricominciamo una settimana, anzi insieme a Salva Danaio, a Deborah Rosciani, ben ritrovati a tutti. Come va sotto questa calura estiva che ci sta veramente facendo impazzire ancora molte città sotto questa cappa in emergenza? Speriamo che insomma passi abbastanza rapidamente. E noi di cosa parliamo di questa mattina? Di un altro tema che infuoca spesso e volentieri, anche se in ambiti diversi. Parliamo di vita di condominio. Da qualche settimana si è tornato a parlare di riforma del condominio, una riorganizzazione legislativa che giace sui banchi del Parlamento da diverso tempo e che nelle ultime settimane si è rimessa in moto. Nei giorni scorsi è ripartita la discussione sul secondo testo unificato che, strada facendo, ha visto la registrazione di numerose modifiche. Allora, quando le nuove norme entreranno nei condomini italiani? Cosa cambia esattamente? Sì, perché cambieranno un po' di cose che vanno dalle azioni di contrasto alla morosità dei condomini, alla gestione del bilancio, alle decisioni sulle parti comuni, al rispetto delle norme di sicurezza degli appartamenti e ai nuovi poteri di controllo che faranno capo all'amministratore di condominio. Tante novità di cui stamattina appunto anticiperemo un po' la portata con l'avvocato Augusto Cirla, un amico di Salva Danaio che abbiamo un po' trascurato da qualche mese a questa parte, quindi bentornato al segretario generale di Assocond, che è l'associazione nazionale dei condomini, non dei condomini, un'altra parte cosa. Dell'utente, di e chi quindi, usa la casa. Attenzione a dove mettiamo l'accento. Avvocato Cirla, grazie di essere ritornato. Naturalmente, siccome peraltro ancora la riforma non è entrata in vigore, anzi siamo ancora nel pieno della discussione, ovviamente stamattina vi daremo l'opportunità di fare delle domande all'avvocato Cirla anche su altri temi che vi disturbano relativamente alla vita di condominio. Sappiamo sempre che è un tema che vi piace molto affrontare con noi. 800 24 0024 per le vostre domande, per gli interventi in diretta. 349 238 6666 invece il numero per i vostri messaggi. La borsa questa mattina, allora, dopo lo scivolone di Wall Street di venerdì scorso, si era svegliata l'Europa in maniera pessima con nuovi cali, poi recupero dell'Europa. Adesso abbiamo tutto positivo. Parigi più 0,34, Francoforte più 0,27, Londra più 0,40 e anche Milano, che era stamattina la peggior piazza d'Europa e perdeva oltre un punto, adesso sta agganciando la parità e sta guadagnando appena un timido più 0,01%, ma in ogni caso anche Milano si colloca in territorio positivo. Quali sono i temi che stamattina stanno attirando l'attenzione degli investitori? Abbiamo avuto intanto la bocciatura del rating sovrano dell'Irlanda da parte dell'agenzia di rating Moody's, prima notizia, e poi abbiamo avuto anche l'interruzione delle trattative fra l'Ungheria e il Fondo Monetario Internazionale per la rinegoziazione di questo prestito da 20 miliardi che era stato erogato a questa economia in piena crisi finanziaria nell'ottobre del 2008. Però a quanto pare questa situazione non sta turbando né il mercato né peraltro l'euro, che sul dollaro è a quota 1,2961 dopo aver ripreso la soglia di 1,30 venerdì scorso. Piazza Affari oggi premia Telecom in rialzo dell'1,42%, UbiBanca più 1,28%, Exor più 1,18%, abbiamo un rialzo di un punto anche per Finmeccanica e per Banca Monte dei Paschi, mentre segno meno sui titoli bancari, sui principali per la verità Intesa, adesso perde l'1,25%, ma stamattina perdeva quasi 3 punti, Parmalat perde un punto, anche Unicredito è arrivata a perdere circa 2,5 punti, adesso ha ridotto sensibilmente il suo calo, -0,7%, -0,7% anche per Mediobanca, -0,8% per Mediaset e Prismian, -0,9% per Luxottica. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. A che punto è la riforma del condominio? La riforma del condominio si rimette in moto. Il testo potrebbe trovare la strada della deliberante o quantomeno venire approvato ad ampia maggioranza entro l'estate, per poi passare alla Camera. Ma quali dovrebbero essere le principali novità? Tra i numerosi punti tuttora allo studio, spiccano senz'altro le regole sulle parti comuni. Con la nuova figura giuridica della sostituzione, basterà la maggioranza dell'assemblea, ammesso che sia rappresentativa dei 2/3 dell'edificio, per procedere alla cessione e alla divisione, a patto che sia cessata l'utilità o sia possibile realizzare in altro modo l'interesse comune. Inoltre, anche gli inquilini, e non solo i condomini, potranno muoversi per tutelare le parti comuni, chiedendo all'amministratore di intervenire con una diffida, qualora fosse necessario. Proprio per l'amministratore sembrano essere in arrivo nuovi obblighi. Sarà tenuto infatti a pretendere la riscossione di eventuali crediti dovuti al condominio entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio esecutivo e dovrà rispondere in prima persona dei danni in caso di negligenza. Un'attenzione particolare anche alle norme di sicurezza. Di fronte al sospetto che in un appartamento non siano rispettate, l'amministratore potrà essere autorizzato ad accedere all'abitazione insieme ad un tecnico per effettuare le dovute verifiche. 800 24 00 24, potete già immaginare, stanno arrivando delle considerazioni, delle domande da parte di molti ascoltatori e come sempre hanno anche un tono pittoresco in alcuni casi. Però prima di sentire poi cosa capita nelle case, nei condomini di tutta Italia, sentiamo prima un po' con l'avvocato Cirla il punto di questa riforma di cui abbiamo dato già qualche anticipazione in termini di contenuto, ma da tanti anni se ne parla, avvocato, insomma, come ancora non riusciamo a portarla a casa? Cominciate le prime discussioni, se non sbaglio, nel 2003-2004, poi per traversare il governo era quasi arrivata al termine e poi si è fermata completamente. Si era già formato in sede di commissione un testo unico sostanzialmente condiviso da tutti, era però un disegno di legge che insomma lasciava parecchio insoddisfatti. Quello che si presenta oggi, che viene dato per quasi scontato, è in realtà un intervento importante che certamente non va a risolvere tutte le problematiche del condominio, ma gran parte le toglie. Si diceva prima sulle parti comuni, una grande novità, lo scoglio maggiore che c'era nel condominio per le parti comuni era quello della disponibilità del bene comune. Veniva cessato il servizio di portierato, veniva eliminato che l'impianto. Che è la cosa che è capitata a me, per esempio, quasi. L'abbiamo dato subito in affitto questa. Potrebbe essere in affitto, ma c'era lo scoglio maggiore che non si poteva vendere. Ci sono dei locali portineria che ad esempio possono essere venduti per utilità del condominio, ovviamente per rifare la facciata, per rifare il tetto, opere straordinarie, e come tutti sanno, se non c'era l'unanimità dei consensi non poteva essere ceduto o comunque sostituito. Adesso l'intervento di questa riforma appunto prevede la possibilità di modificare, usando un termine un po' timido, ecco, da parte del legislatore che non vuole, non ho ancora capito perché, spingersi ad affermare sulla alienabilità, sul cambiamento delle parti comuni. In realtà non usa questo termine, usa sostituzione delle parti comuni, un po' timido, però il significato è quello. Che può essere fatta quindi questa vendita, il cambio delle parti comuni con una maggioranza, benché sempre qualificata, ovviamente parliamo sempre dei 2/3 del valore millesimale e della maggioranza degli intervenuti in assemblea. Cosa possono fare i condomini? Finalmente hanno questo locale portineria che non serve più, o il locale caldaio, qualche altro immobile e quant'altro, lo possono cedere, lo possono trasformare, insomma, da proprietà comune a proprietà vendita a terzi e quant'altro. E lo stesso sembra che sia orientati nello stesso senso quando si acquista il bene, un bene comune, può capitare per la sala riunioni e quant'altro. Un altro tema molto interessante è anche quello relativo al cosiddetto contrasto alla morosità. Peraltro alcuni studi recenti, ne abbiamo divulgati anche in più occasioni nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, i condomini morosi sono aumentati, purtroppo, perché la crisi finanziaria ha investito da più parti, e qua ovviamente è sempre molto delicato intervenire in questo settore, perché non si sa bene che strada intraprendere. Chiaramente magari alcuni chiedono di avere un po' di pazienza e di dare così questa opportunità di risistemare un po' la situazione finanziaria personale, pian piano poi ci si rimette in carreggiata. Qualcuno invece fa il furbo, non paga, e allora lì partono le azioni ingiuntive da parte dell'amministratore di condominio. Il contrasto alla morosità viene rafforzato, avvocato Cirla? Sì, viene rafforzata, benché in modo non certo risolutivo, per i fattori che diceva anche lei. Insomma, la morosità oggi in condominio è crescente e rispecchia un la crisi che c'è nazionale e non solo. Viene dato un input in più all'amministratore, benché gli si lasciano immutati i mezzi che aveva prima nel decreto ingiuntivo, però gli si dà dei tempi, che sono questi 4 mesi dal momento in cui sorge la morosità. In difetto è chiamato personalmente a rispondere, non tanto per le somme che non ha erogato il condomino, ma per i possibili danni che può subire il condominio. Quali potrebbero essere? Gli interessi moratori dei fornitori, ad esempio. esempio, delle more che vengono pagate in più su bollettini con determinate scadenze. Ecco, questo sempre fatto salvo una diversa volontà dell'assemblea, questo per dare possibilità al condomino magari di presentare, di proporre dei piani di rientro. Però il fatto che ci sia questo termine di 4 mesi per iniziare l'azione esecutiva, quindi il noto ormai decreto ingiuntivo, sicuramente visto positivamente, perché così il condomino, insomma, purtroppo sta succedendo questo, che le spese di condominio sono le ultime ad essere pagate, no? Prima ci sono le bollette della luce, poi c'è la rata ovviamente che si prende sempre per prestiti o per quant'altro, e poi arrivano le spese di condominio. Il risultato, ci si trova di fronte a delle morosità ciclopiche e che il condomino poi fa fatica a rientrare, mentre con un termine di 4 mesi io lo vedo assolutamente positivo. Benissimo, allora la prossima domanda che avrei voluto farle è se questa riforma in qualche maniera rafforza anche e in che ambiti le funzioni dell'amministratore di condominio. Però, visto che la figura dell'amministratore di condominio è al centro di tantissime domande da parte dei nostri ascoltatori, gliele faccio già ascoltare. Avvocato Cirla, io saluto e ringrazio stamattina Paola da Roma, che inaugura le nostre chiamate a Salvadanaio e questo nostro inizio di settimana. Paola, buongiorno. Buongiorno, io vi ringrazio per avermi richiamato e per darmi ascolto. Il mio problema, vivo in un condominio di Roma Centro, un condomino stanco della inefficienza della nostra amministratrice. Era solo lui, voi eravate tutti contenti, Paola? No, non tutti contenti, però insomma si poteva anche rimuovere facendo un'assemblea tra di noi e eleggere un nuovo amministratore che fosse gradito magari alla maggioranza. E invece che strada si è presa? Questa condomina ha preso la via giudiziaria, ha fatto eleggere un'amministratrice giudiziaria. Ah, però. Appunto, però. In questo ci siamo resi conto dalla prima riunione che siete saltati dalla padella alla brace? Esatto, ma non solo. La nuova amministratrice, che fra l'altro è un avvocato, dice di avere tutti i poteri in autonomia, quindi decide in autonomia, senza ascoltarci assolutamente, i lavori da fare, la procedura per gli eventuali morosi o altre cose in bilico. Non c'è la possibilità di esaminare i vecchi bilanci, quindi insomma io in particolare mi sento parecchio frustrata in questo. Ma direi anche perché, Paola, guardi, adesso con tutto il rispetto, perché lei sta subendo una situazione che ovviamente non ha provocato, ma l'avvocato Cirla sta facendo una faccia abbastanza sbigottita, perché non è proprio, non sta né in cielo né in terra una situazione di questo tipo. L'amministratore di condominio, per quanto abbia un potere magari un po' più forte perché deve gestire una situazione straordinaria, poteri di questo tipo non è scritto da nessuna parte che li possa avere. Avvocato Cirla, non mi faccia ridere, perché veramente io stavo facendo delle considerazioni con lui sulla dura vita degli amministratori di condominio, perché adesso, a prescindere dal fatto che è un lavoro come un altro e che qui, ma bisogna veramente in certe assemblee assumere ad un atteggiamento zen. E lui mi diceva, avvocato, ce lo racconti, che lei ha assistito a qualche corso per amministratori di condominio con uno psicologo presente. Esattamente, lo psicologo che insegnava agli amministratori come stare in assemblea e come comportarsi con i condomini, che voglio dire, non è facile nel bene o nel male, cioè c'è l'amministratore che si arrabbia subito, che tratta male i condomini, e invece e certe volte ci sono i condomini che trattano male l'amministratore, e l'amministratore è proprio un mestiere difficile, difficile. No, ma poi mi fanno anche sorridere molto quelli che per tutto l'anno si disinteressano totalmente della vita del condominio e poi sono pronti a pontificare in assemblea su cose che sono state fatte, non sono state fatte, ma uno poi a metterci l'impegno in prima persona fa sempre molta fatica, perché questo va anche riconosciuto. Insomma, io sono una che l'assemblea di condominio ci va sempre, a quelle straordinarie soprattutto, perché non voglio sorprese poi nella presentazione. Giusto. Di cose da pagare o meno, e quindi so come sta andando la vita del mio, anche se poi non partecipo attivamente alla gestione. Allora, avvocato Cirla, Paola da Roma, sentite cosa è capitato. C'è questa amministratrice della quale non erano molto contenti, nessuno però voleva, come dire, sollecitare una sua fuoriuscita dalla gestione di questo condominio apertamente. L'ha fatto per loro un abitante di questa palazzina indagine evidentemente, ma a noi sembra impossibile che possa aver scelto un amministratore giudiziale? Sì, cioè è previsto per legge nel momento stesso. Sì, ma quello precedente ad aver combinato qualcosa deve essere provato. Oppure quando l'assemblea non è in grado di deliberare, quando si formano, non si riesce mai a raggiungere il quorum dei 500 metà dei millesimi, la maggioranza degli intervenuti, allora l'amministratore rimane in stallo, non è né eletto e rimane in proroga. Allora in questo caso, non potendo appunto deliberare l'assemblea, non essendo in grado, viene chiamato il giudice a nominare un amministratore. Ma attenzione, l'amministratore giudiziario non è che abbia poteri maggiori del normale amministratore, quindi nel caso in specie non posso che avere meraviglia e stupore. Meraviglia perché l'amministratore nominato è un avvocato e quindi le leggi dovrebbe saperle bene, e stupore perché probabilmente questo avvocato ha un codice personale suo, un codice civile suo, che legge solo lui. Voglio dire, l'amministratore giudiziario ha gli stessi poteri dell'amministratore normale, non sono previsti poteri particolari, e quindi comunque anche lui è sottoposto al volere dell'assemblea. Le opere le può fare da solo senza delibera, se sono solo urgenti, e poi deve essere chiamato a ratificare dall'assemblea, o altrimenti sottostà al volere dell'assemblea. In circostanze normali, avvocato Cirla, quando non si è contenti della gestione di un amministratore di condominio, che cosa si deve fare? In assemblea ci si deve riunire, di fronte a questo indicargli chiaramente che è quella la porta d'uscita, arrivederci e grazie, e quindi procedere ad una nuova nomina. Sono, cosa deve fare il consigliere in questo caso? Sono personalmente convinto che un buon amministratore sa benissimo quando non gode più la fiducia dei condomini. Nel momento stesso che si trova o con maggioranze, passatemi il termine, deboli, risicate, il 500 strappato, oppure spesso rimane per anni in carica per proroga dei poteri perché non riesce mai a ottenere questo quorum, allora si deve chiedere, un conto ci sono delle assemblee che vanno regolarmente deserte, i condomini si disinteressano, che è il male del condominio, che poi non ci si può lamentare se non si va in assemblea, bisogna partecipare al condominio, quindi alla nomina dell'amministratore. Ma ci sono altre assemblee che insomma l'amministratore è sempre in bilico, da professionista qual è, dovrebbe capire di andarsene da solo, se no altrimenti spesso il condominio si spacca proprio sulla figura dell'amministratore. Questo è un guaio. Ispezione negli alloggi da parte dell'amministratore, poi ne parliamo, avvocato, perché ho visto che ha già suscitato molto interesse da parte di diversi ascoltatori. Intanto sentiamo altri casi. Antonino da Siracusa all'800240024. Benvenuto Antonino. Grazie, buongiorno. Che temperatura abbiamo a Siracusa? 37 credo. Ma così, insomma, tanto per gradire, sì. Ci dica. E se le sue assemblee di sì. Vorrei chiedere qualcosa sulle parti comuni, cioè ovvero la posizione dell'amministratore nella difesa, nella tutela delle parti comuni, nella fattispecie delle stradine condominiali. Di fronte a un tentativo di appropriazione di un tratto di strada condominiale, più o meno legittima secondo insomma quello che sostiene un'altra persona, l'amministratore è tenuto ad agire immediatamente contro l'abuso, ha il dovere di farlo anche in giudizio oppure no? Grazie Antonino. Avvocato Cirla. Ecco, abbiamo capito quanto il tema delle parti comuni sia delicato. C'è una risposta teorica e una risposta pratica, in questo senso. Dal punto di vista meramente teorico e del diritto, è chiaro che l'amministratore proprio per legge è tenuto a conservare le parti comuni, i beni comuni. Conservare vuol dire sotto un profilo giuridico, quindi se qualcuno vanta dei diritti di proprietà o possesso o detenzione su una parte comune, è chiaro che l'amministratore per legge dovrebbe intervenire anche senza il deliberato dell'assemblea, perché è proprio un suo potere specifico. Questa è la risposta teorica, però la risposta pratica è il volere effettivamente dell'assemblea, cioè se da un lato l'amministratore può agire d'impero suo, d'altro canto deve sempre confrontarsi con l'assemblea. Parliamo sempre di azioni giudiziarie, quindi nel momento stesso che l'amministratore porta, espone il problema in assemblea e l'assemblea però risponde negativamente, è chiaro che pretendere che l'amministratore inizi un'azione giudiziaria così di acchito suo, lo ritengo un po' troppo devastante per lui, insomma, come responsabilità e quant'altro. È sempre meglio che passi attraverso l'assemblea. Intanto mi pizzica la gola, stamattina spero di fare in tempo a portare a termine la domanda che le voglio fare adesso. Allora, la riforma del condominio da cui siamo partiti dovrebbe portare appunto anche questa novità, cioè la possibilità, la facoltà per gli amministratori di condominio di ispezionare o di così stabilire delle ispezioni negli alloggi dove ci sia il sospetto non infondato che in questo appartamento ci siano impianti o opere che non rispettino le norme di sicurezza. In questo caso appunto magari anche altri condomini possono rivolgersi all'amministratore per denunciare questi sospetti. E appunto poi l'amministratore che cosa potrebbe fare? Bussare lui alla porta e chiedere di prendere visione dell'appartamento, avvocato, oppure la questione un po' più complicata? Sì, innanzitutto ritengo che questo sia un intervento, una proposta molto utile. Nel senso che ci sono degli immobili che veramente difettano di tutti i presupposti di sicurezza e quindi danneggiano l'intero condominio. Una per tutte, la bombola tenuta senza la precauzione, poi insomma non rischia solo il condomino, ma rischia addirittura tutto il palazzo. Quindi questa è una norma giustissima. Un po' portata all'eccesso, nel senso che ad esempio anche di fronte a una certificazione che dimostra che l'immobile è in regola, l'amministratore proprio può andare avanti da chito, quindi non è sufficiente questa certificazione. Questa è forse una stortura del disegno, comunque poi sarà la pratica a vedere se funziona o meno. Ma in linea di massima, di fronte al dubbio fondato che ci siano irregolarità sotto il profilo della sicurezza, non solo l'amministratore, il condomino e nel disegno di legge anche l'inquilino, perché sostanzialmente anche lui, che giustamente abita nell'immobile, può segnalare queste irregolarità all'amministratore e l'amministratore può rivolgersi al condomino, diciamo così, additato, chiedere di poter esaminare con un proprio tecnico l'appartamento. Se il condomino pone rifiuto, ovviamente c'è l'intervento all'autorità giudiziaria. Teniamo presente però questo. L'ultimo comma di questa modifica del nuovo articolo cosa prevede? Che se il sospetto poi si dimostra infondato, le spese di tutto questo IT, delle procedure e quant'altro, resta a carico di colui che ha segnalato all'amministratore questa irregolarità. Quindi, e che non pensi poi di distribuire tutta la spesa tra tutte, perché quindi, lui dice attenzione. Insomma, era una questione di sicurezza generale, no? Quindi, come dire, il delatore chi denuncia paga. Questo per evitare magari abusi, insomma, certo. Ripicche. No, perché magari qualche volta, esatto, una piccola ripicca di altra natura può diventare il pretesto per andare a fare un ispezione, esatto, giusto per fare un dispetto, costare. E paga. Maria Elisabetta da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono qua. Niente, io ho un problema di questo tipo. Sono in una casa da 40 anni e ho un box che è interrato nel giardino e faccio parte di 28 altri, insomma ce ne sono 28. Però poi ce ne sono altri nuovi che hanno costruito in seguito, vabbè. Nel mio box, sembra solo, no, non credo che sia solo il mio, praticamente piove dall'alto, dal fianco, è in mezzo all'acqua. Ho fatto presente, ha messo in assemblea straordinaria la cosa, l'ha portata in assemblea, è venuto fuori la guerra, te lo metti a posto, dobbiamo intervenire noi, ma siamo pazzi, eccetera, eccetera. Allora, anche l'amministratore si è trovato davanti a questo fatto, dice adesso vediamo un po' come risolvere la cosa, se il costo deve essere diviso due terzi su il proprietario del box e l'altro terzo su tutti gli altri. Ma la cosa è niente, è rimasta in aria, adesso dice che lo porterà nella prossima assemblea che avverrà in settembre. Però sento che la gente, il costo è veramente elevato perché si tratta di sterrare questo giardino, cioè svuotarlo, non so cosa si debba fare. Però di fatto adesso Maria Elisabetta, mi scusi, non utilizza questo box? No, perché lo utilizzo, ma perché comunque adesso in questo momento piove poco. Certo, insomma, però tutto quello che ci mette dentro è a rischio, comunque... Cioè, ci sono anche dei danni economici che derivano da questa situazione di come dire, manutenzione non proprio ottimale di tutta questa struttura. Maria Elisabetta, rimanga lì che sentiamo già l'avvocato, se poi magari avesse bisogno di farle altre domande. Avvocato sì, Cirla. Guardi, il problema purtroppo è tra l'altro è molto diffuso. Certamente, il problema è che se viene portato in assemblea e l'assemblea rifiuta con le motivazioni che ho poc'anzi sentito, quindi ripara tu, tutti siamo in questa situazione. Purtroppo al condomino danneggiato non resta che l'autorità giudiziaria, è brutto dirlo, però l'ultima spiaggia è davvero sempre il magistrato, che in questi casi non può avere dubbi sul decidere. È ovvio che lei ha il diritto di godere pacificamente del suo box senza infiltrazioni e senza acqua. Fare una impermeabilizzazione interna, ma se non è sempre un tamponamento, perché poi da un punto di vista tecnico prima o poi l'acqua passa. Quindi è certo che lei ha diritto anche al risarcimento del danno, quindi al ripristino del suo locale. Per quanto riguarda invece il riparto delle spese, le segnalo che recentemente proprio la Cassazione si è espressa, purtroppo non a sezioni unite, quindi comunque sempre valutabile, sul criterio di riparto proprio del classico giardino sovrastante ai box, e ha stabilito un riparto al 50%, quindi tra condominio e tra proprietari dei box. Poi dopo si deve vedere caso per caso, però questo è marginale rispetto al problema da lei sottoposto. Prima risolviamo il problema, poi andiamo a decidere come ripartire la spesa. Allora, avvocato Cirla, tra l'altro di tutte le novità che arriveranno, secondo lei quest'anno la partoriamo questa riforma del condominio? Domanda difficile, a mio parere non ce la si fa, però la speranza è l'ultima a morire. È sempre l'ultima a morire. La garanzia sulle somme gestite, eliminato l'obbligo di copertura, che cos'è questa cosa che pure fa capo all'amministratore di condominio, che doveva nella versione precedente del disegno di legge prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dal suo incarico per un valore non inferiore agli oneri. Guardi, non vado più avanti, che cosa vuol dire tutto questo? È il problema annoso che si pongono gli amministratori, o meglio, si pongono i condomini di fronte ai possibili ammanchi dell'amministratore, il classico amministratore che scappa con la cassa, passatemi il termine. Nel originario disegno era prevista una cosa ciclopica, troppo, una fideiussione che l'amministratore doveva chiedere in proporzione all'ammontare delle somme che gestiva. Era una pazzia, nel senso che oggi un amministratore che amministri, non so, 40-50 condomini, potete immaginare quanto è il rendiconto consuntivo, sono somme veramente molto alte. Però dal massimo, che era questa fiduzione, a zero, a mio parere c'è una via di mezzo. Nel disegno attuale non è previsto nulla, non è previsto di queste garanzie. So però che sta per essere presentato un emendamento da parte di altri parlamentari che prevedono uno pseudo fondo di garanzia, che non è una novità nel nostro ordinamento giuridico. È lo stesso fondo di garanzia che ad esempio c'è per a tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione. Come potrebbe essere concepito? Non funziona moltissimo, avvocato, non funziona moltissimo perché la gente non è sempre, i costruttori non sono il massimo della correttezza. Esatto, sotto non viene alimentato profilo. Se non mi ricordo esattamente, male. Esattamente. Ma in questo caso sarebbe automatico, cioè la proposta cosa prevede? Che l'amministratore sulla sua notola, sui suoi compensi, metta anche una percentuale del 2%, del 3% a secondo sul movimento, che viene versato a questo fondo. A nostro giudizio, a mio giudizio personale, avrebbe una duplice funzione. Una di controllare l'amministratore che effettivamente fatturi. Mi spiego, se prendiamo il nominativo di un amministratore e vediamo in base ai condomini che ha amministrato che il suo versamento nel fondo è limitato, vuol dire che probabilmente non fattura tutto. Secondo, è una spesa che ovviamente andrebbe a gravare sui condomini, ma questo come andava a gravare la fideiussione prevista. Ma io credo che il condomino l'avessi a cuore aperto questo contributo, perché sa che comunque è garantito da eventuali colpi di mano dell'amministratore. Quindi questo 2-3% a secondo, un po' come la cassa previdenza avvocati, via, tutti i professionisti hanno questa cosa qua, viene versato in questo fondo che è gestito, che andrebbe a coprire eventuali ammanchi, le vittime insomma delle frodi degli amministratori. E infatti, una via di mezzo, via. Pure queste, esatto. Tosto che a zero. So che lei ne ha conosciuto anche qualcuno, avvocato, che stimava molto e invece insomma si è scoperto poi non essere, come insomma, dire, personalità sempre tenere gli occhi aperti, di macchia. Via. E infatti. Salvatore da Milano, buongiorno, mamma mia quanti milanesi oggi, vabbè, tanto. Buongiorno. Il tasso delle palazzine dei condomini altissimo in questa città. Buongiorno Salvatore. Buongiorno Deborah, buongiorno avvocato. Buongiorno. Niente, la mia domanda era questa. Il nostro condomino che ci crea un po' di problemi. Tutti ce l'abbiamo. Ha rifatto la casa interna da quando è arrivato come voleva. E vabbè, questo per me non era un problema. Però nell'insieme ha rifatto pure la pavimentazione del giardino. Dove passate tutti? Quella parte lì non era facciata. Non era facciata, ma è una parte comune, Salvatore, quella? È una parte comune. Quello che io, infatti, l'unico condomino che è andato giù a dirgli: guardi, ma lei è convinto di fare, cioè di poter fare questo lavoro? Sì, sì, guardi, io ho chiesto all'amministratore. E l'amministratore mi ha detto che potevo farlo purché fosse permeabile. E comunque la pavimentazione non è una parte comune, perché non è facciata. Allora, Salvatore, ma che cosa c'entra? Ci sono delle, stavamo dicendo prima, ci sono tante parti dove si transita con camminando, voglio dire, e quella non è facciata. Comunque, a parte questo, allora, questo condomino si è mosso in maniera del tutto autonoma, vabbè, per la ristrutturazione degli interni di una casa non credo, ecco. Non c'è problema fino a un certo punto. Se va però a toccare strutture portanti, deve valutare anche quante altre voglio modifiche buttare giù un muro e casualmente dall'altra parte ci abita il vicino, quindi. Oppure quello di sotto ha già buttato giù una parte di muro esattamente corrispondente alla sua, quindi bisogna vedere, perché se tolgo io il muro, toglie quello di sopra e toglie quell'altro ancora, la casa crolla. Ecco qua. No, quindi non tutti gli interventi all'interno sono ammissibili, no, e qui l'amministratore dovrebbe intervenire in qualche momento. Ma per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni, la legge è chiara, dice che innanzitutto il condominio non può intervenire su parti comuni se non preventivamente autorizzato, ma neanche dall'amministratore e dall'assemblea. Se lo fa, comunque paga lui, perché a meno che non abbia un motivo d'urgenza tale che non riesca neanche a far convocare un'assemblea, quindi lo paga lui, ma non basta, perché non è che se io pago un intervento su parte comune poi posso fare quello che voglio. Se l'opera non è ritenuta utile o essenziale, o comunque che non piace al condominio, il caro condomino fa il piacere di rifarsela e rimettere in pristino. Quindi per quanto riguarda, è chiaro che il passaggio, il giardino, il cortile non è facciata, ma questo non lo giustifica, sono due cose completamente diverse. La facciata è una parte comune, la strada è una parte comune, il cortile è una parte comune, cioè come parte comune deve rispettare le regole, non può metterci le mani se non con il volere dell'assemblea. Certo, ma che questo amministratore abbia dato questa sorta di autorizzazione senza neanche dirgli: guarda, l'assemblea infatti, dobbiamo convocarla, però andiamo a accertare, se no, altrimenti qua mi sembra un amministratore un po' superficiale. Via. Benissimo, allora adesso a chi andiamo? Andiamo da Marina, da Milano. Marina. Sì, buongiorno. A lei non sta bene il periodo in cui si svolge l'assemblea? E quando la vuole fare? Esatto. Non è che non mi sta bene per un capriccio così. Mentre la gestione si chiude il 30 giugno e si apre col 1 di luglio, noi abbiamo già una bolletta da pagare nel 1 di luglio che non abbiamo ancora tenuto né assemblea, né fatto preventivo, né fatto consuntivo. E questo è già una cosa che non è una bolletta, nel senso che è una rata un forfè. Ecco. Beh, anche, sì. Purtroppo l'anno scorso è stato deciso anche dall'assemblea, ma prima lo faceva senza che chiedere permesso a nessuno. Primo. Poi io ho già posto il problema alla gestione scorsa, l'anno scorso, e mi hanno risposto che ci vogliono mille millesimi per poter cambiare la data. Quindi una maggioranza totale, Marina. Allora, volevo sapere se era vero questo. E perché si ostinano a non cambiare? Perché mentre sul verbale c'è scritto che finisce il 30 di giugno e si apre il 1 di luglio, non capisco perché non si possa fare, anche perché poi facendo così noi abbiamo tutte le bollette ravvicinate una all'altra e entro maggio le dobbiamo pagare tutte. E non sono poche. Marina, io spero che lei non abiti nel mio condominio, perché è la situazione che capita a noi. Detto questo, però, noi l'abbiamo concordata e quindi Marina non abita nel mio edificio. Sì, allora intanto per quello che riguarda l'anticipo estivo, in genere si fa anche un po' per alleggerire poi tutto il piano dei versamenti annuali, però Marina non ci sta, dice non mi sta bene. No, il problema è risolvibile, innanzitutto dalla modifica della gestione. È sicuramente una norma che non va a influire su diritti immodificabili dei condomini, no? È una questione di utilità, di praticità del periodo della gestione, quindi può essere benissimo modificata con una maggioranza, ma non è questo il problema, perché poi la gestione quando finisca il 30 giugno l'assemblea può essere convocata anche dopo, a settembre. Come sopperire al fatto della bolletta che scade il 1 luglio o il mese d'agosto? semplicemente autorizzando l'amministratore ad emettere una rata in anticipo sulla gestione futura, ovviamente poi che deve essere poi ratificata nell'assemblea che verrà tenuta in modo ordinario, perché sennò altrimenti qualsiasi sia il periodo di chiusura della gestione, è ovvio che l'amministratore non può immediatamente convocare l'assemblea. Teniamo presente che c'è sempre un lasso di tempo che prudenzialmente indico almeno i 60-90 giorni dalla chiusura della gestione, il tempo materiale di fare il rendiconto e quant'altro. No, quindi non uscirebbe mai, se la gestione finisse anche il 30 marzo per ipotesi, non uscirebbe mai in aprile a convocare una assemblea. Ecco che allora si sopperisce dicendo: tu amministratore emetti anche pure una rata sulla gestione, autorizzato dall'assemblea ovviamente, una rata sulla gestione successiva, quando fai l'assemblea rendi il tuo conto e ratifichi o meno questa rata e la metti in conto, perché tanto comunque nella gestione del condominio purtroppo non c'è un anno che si spende 100 e l'anno 0 l'anno dopo, no, se non 120. È 100 sarà 120 o 90, no, quindi comunque una prima rata sempre purtroppo pagata. Avvocato, Gabriele da Torino chiede: l'amministratore può richiedere un compenso per un passaggio di consegne al nuovo amministratore? Allora, attualmente no, se non è pattuito nei suoi quando formula la proposta, e qui c'è sentenza aiosa, perché rientra nei suoi compiti consegnare la documentazione. Tanto vero che nel disegno di legge che stiamo commentando è proprio previsto il compenso per il passaggio di consegne, quindi se oggi la legge ritiene necessario dirlo che occorre un compenso, vuol dire che prima non c'era. No. Allora, se io amministratore presento la mia proposta all'inizio quando vengo eletto e metto anche nei miei onorari un compenso per la consegna della documentazione, sì, se no altrimenti rientra nei normali compiti dell'amministratore prendere la documentazione e consegnarla al termine del suo mandato. Avvocato, qual è secondo lei la parte di più ampia portata di questa riforma? Sicuramente la possibilità di sostituire, uso lo stesso termine usato nel disegno, le parti comuni. Questo è sicuramente un passo avanti. Perché passo creava avanti. Molti disagi nella vita condominiale. Sì, bloccava la vita condominiale. Quindi questo allora, è sicuramente utile. Noi abbiamo terminato anche per quest'oggi, Salvadanaio. L'ultima volta che abbiamo parlato a lungo di condominio è stato agli inizi di luglio, ma anche nei mesi passati, quando abbiamo parlato dell'introduzione della cosiddetta tariffa bioraria e adesso delle opportunità di risparmio per molte famiglie se cambieranno le abitudini di consumo degli elettrodomestici all'interno delle case. Quindi fare la lavatrice dalle 7 di sera al sabato e la domenica a quanto pare creerà molto fermento nella vita di condominio. Io credo proprio di sì. Credo sì. Riempirà le aule del giudice di pace per questione dell'emissione di rumore. Noi veramente, cioè, le cose che ci sembra che ci portino beneficio, e in questo caso parliamo soprattutto di questioni ambientali, invece forse non era stato previsto, ma magari torneremo a parlarne se è si creerà la base molto di educazione del condominio. Esatto, però come diceva Alessandro Ortis, che è il presidente dell'autorità del gas e dell'energia, io capisco, dice, ma fare una lavatrice dalle 7 alle 8 di sera non dovrebbe creare tutto questo scompiglio, un conto e mettersela a fare dall'una alle 2 di notte, ma non credo che nessuno di noi lo faccia, quindi qui si tratta di anche questioni di buon senso alle quali molto spesso non siamo purtroppo abituati. Avvocato Cirla, buon lavoro, a presto. Grazie mille a tutti voi. Grazie a tutti, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Torniamo domani con le novità sulle multe. Buona giornata.